dicevo, alle 22.30, 25 o'clock, che va a concludere questo mercoledì 9 febbraio del 2011. Ricordi i contatti 0649 1750 per quanto riguarda il nostro numero di telefono, il sito internet che è www.ondorossa.info anche per ascoltarci via streaming. L'indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info e per quanto riguarda prove tecniche disorder @ondarossa.info. Il numero di conto corrente postale per questa realtà che è completamente autogestita è 6180 4001, intestata a Radio Onda Rossa, Vele Vosce 56 00185 Roma. Quindi noi andiamo ad iniziare e lo facciamo con l'ultimo album per Herman Claffels, il suo progetto che si chiama Kamasots, in attività ormai da molti anni, e l'ultimo album si chiama Blood Will Tell. E come al solito a Kamasots qui ci delizia con la consueta miscela di dark ambient, breakbeat, atmosfere etniche e tech noise. Da questo album ci andiamo ad ascoltare uno degli episodi più rarefatti e sperimentali dell'intero album, che porta il nome di Diabolus in Musica. chiama Blood Will Tell, ultimo lavoro per Akamasots, per Herman Klaffels, proveniente da Anversa, proveniente dal Belgio. Un ultimo album che esce per la sua etichetta, che si chiama Bats and Cats, e dalla quale, dal quale lavoro abbiamo estratto questa Diabolus in musica, decisamente rarefatta ma soprattutto esoterica. Ebbene, da Akamasots, da questo Blood Will Tell, adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra tra virgolette novità, che in realtà però è una compilation appartenente a un gruppo abbastanza sotterraneo dell'area più riconducibile all'elettro e alla minimal synth. Sto parlando del progetto francese Le Syndicat Electronique di Alexander Gand. Ebbene, è uscita una retrospettiva che porta proprio questo nome, Retrospective, con materiale che va dal 98 fino al 2005. E noi ci andiamo ad ascoltare tre brevi estratti, ossia Abstract Relation, Close to You e Never. never stop it. Ampio spazio dedicato a questo progetto francese, Le Syndicat Electronique, che può ricordare assai da vicino i ben più famosi Absolute Body Control di Dirk Evans ed Eric Van Vortergen. In realtà, mentre Absolute Body Control nasceva all'inizio degli anni 80, questi Le Syndicat Electronique sono molto più recenti. E questa compilation, questo doppio CD, raccoglie appunto materiale che va dall'inizio sino alla, credo, finale della loro carriera, quindi dal 1998 fino al 2005. Le Syndicat Electronique. Questa è Prove Tecniche di Trasmissione con Elettro dei Controlli qui sulle frequenze degli 87.9 di Radio Onda Rossa, come ogni mercoledì sera dalle 21 sino alle 22.30. Ebbene, arriviamo qui in Italia. Un personaggio che da un po' di tempo, esattamente 9 anni, personalmente non sentivamo più. Sto parlando di Tifoid, alias Maurizio Landini, e mi rendo conto che sto per dire una cosa esattamente scontata e che magari, se per sbaglio, il buon Maurizio Landini di Tifoid in diretta potrebbe anche infastidirsi. Ovviamente nulla a che spartire con il Maurizio Landini, dirigente della FIOM CGL, un caso di omonimia. Se non erro, questo Maurizio Landini proviene da Ancona. E stiamo per ascoltarci il secondo album di Tifoid, l'ultimo album che si chiama Simulazione di Divinità, che esce per la tedesca Hans, etichetta di Dortmund. Ci andremo ad ascoltare le prime due tracce, ossia ho quello che ho e di nuovo buio. a sfumare questo tifoid, simulazione di divinità del buon Maurizio Landini. Secondo album del 2010, dopo 9 anni, ben 9 anni di silenzio, ritorna ancora con la fedele Hans di Dortmund di Udo Wiesmann. Ed è strano il pensare e dire e leggere titoli completamente in italiano, tenendo conto delle atmosfere che ci siamo ascoltate, un po' tra breakcore e industrial, un album volutamente ambiguo che si muove tra dei momenti quasi raffinati ed altri decisamente più minacciosi, che si alternano in continuazione in tutte le tracce di questa simulazione di divinità di Tifoid. Ebbene, dall'italiano Tifoid, da Maurizio Landini, ci spostiamo in Spagna con Esplendor Geometrico, quindi torniamo un po' indietro nel tempo, con questo album che si chiamava Sheikh Al-Jama, un lavoro che usciva per la Daft del già citato Dirk Evans. Ci ascoltiamo Trafica. De armas, drogas y mujeres, a quien, cosa extraña, un país amigo nuestro le da asilo. Un vagabundo y traficante de armas, drogas y mujeres. Un vagabundo y traficante de armas, drogas y mujeres, a quien, cosa extraña, un país amigo nuestro le da asilo y le permite conseguir entrevistas. Un vagabundo y traficante de armas, drogas y mujeres. Un vagabundo y traficante de armas, drogas y mujeres. A quien, cosa extraña, un país amigo nuestro le da asilo y le permite conseguir entrevistas. Traficante de armas, drogas y mujeres. Traficante de armas, drogas y mujeres. Traficante de armas, drogas y mujeres. Traficante de armas, drogas y mujeres. país amigo nuestro le da asilo. Un vagabundo y traficante de armas, drogas y misiles. Un vagabundo y traficante de armas, drogas y misiles. Aquí es cosa extraña. Un país amigo nuestro le da asilo y le permite conseguir entrevistas. Un vagabundo y traficante de armas, drogas y misiles. Un vagabundo y traficante de armas, drogas y mujeres, aquí es cosa extraña, un país amigo nuestro le da asilo y le permite conseguir entrevistas. Traficante de armas, drogas y mujeres. Traficante de armas, drogas y mujeres. Un traficante de armas, drogas y mujeres. Traficante de armas, drogas y mujeres. E sono le 21.55, Radio Onda Rossa 87.9, sempre con prove tecniche di trasmissione. Ancora sta andando Esplendor Geometrico da questo vecchio album del 91, questo Sheikh Al-Jama, questa è Trafica. Passatemi il termine, un tribalismo industriale, un genere nel quale, chiamiamolo così, Esplendor Geometrico decisamente era nei gradini più alti, si poneva nei gradini più alti, ispirando poi tantissimi gruppi. Che vendono in successivamente fino ai giorni nostri. Ricordiamo in attività dall'inizio degli anni 80 Esplendor Geometrico e tuttora esistenti, con Arturo Lanz e Saverio Evangelista come nucleo principale. E arriviamo a qualcosa di, come dire, di più raccolto, che parte dal neofolk per poi unirsi ad atmosfere più elettroniche. E sto parlando dei Lager Desiles, progetto piuttosto sotterraneo. E di loro abbiamo quello che rimane a tutt'oggi l'ultimo album del 2008, che si chiama Memorie. E da memoria ci ascoltiamo Sensucht e Der Gipfel hier. Mir bleiben Brände, da hab ich mir heimlich gedacht. Legger Desiles, un nome che nasconde Mario Hansin, questa è la vera denominazione, il vero nome del musicista, che si nasconde appunto dietro il nome Legger Desiles. Questa è Memoria del 2008, ed escludendo dunque una compilation del 2010, a tutt'oggi rimane l'ultimo album per Legger Desiles. E torniamo ai giorni nostri, un'altra novità, appartenente a March of Heroes. Lui proviene dalla Francia e al suo secondo album, due album entrambi incisi per la Rage in Eden. L'avevamo lasciato 3-4 anni fa con March for Glory, con quell'album che aveva in copertina l'Armata Rossa. Ce lo ritroviamo con questo secondo album che si chiama Liberation, con più o meno lo stesso immaginario, con questo soldato presumibilmente dell'Armata Rossa con bandiera rossa conseguente tra le mani. Ebbene, da questo Liberation ci ascoltiamo la traccia che lo apre, che si chiama Prologue. Thank you. Боеприпасы нет. Ступайте. Слушайте. Что за связью? За штабом связи нет. Похоже, линия оборвана. Вызывайте. Штаб уже здесь. Владимир Оскарович, как вы здесь? Там же все под обстрелом. Связь повреждена. Почему прекратили наступление? Какое наступление? Ни одного патрона. Сергей Николаевич, получена телефонограмма от Колчака в Иркутске восстание. Мы должны освободить город. Там соединимся с адмиралом. Кроме нас спасти город никто не сможет. Надо наступать. Основные силы подтянутся? Уже в пути, но пока не подтянутся. Нас здесь перебьют. Да будем вдвоем. Другого выхода у нас просто нет. Время дорого. Сергей Николаевич, объявите общее построение. Assai sinfonico e assai solenne questo Liberation per March of Heroes. Lui proviene dalla Francia, si chiama Romain Lemenorel e questo è il suo secondo album del 2010 che esce per la polacca Regine Eden, etichetta che una volta si chiamava War Office Propaganda per poi cambiare nome nel 2007 appunto chiamarsi Regine Eden. Un album che sa di sangue, di dolore, di sofferenza dalla parte dell'esercito russo, da come si evince anche dai campionamenti e dalla lingua parlata in questo album, in tutto l'album. моих товарищей, высокие звания, присвоенные нам советским правительством, мы поставим... Ebbene, lasciamo dunque Martial Heroes, lasciamo Liberation per tornare in Germania. Ai ben più noti Einsturzende, Neubauten, questo Strategies Against Architecture Number 4, la compilation solita che fanno di tanto in tanto, che questa volta racchiude materiale che va dal 2002 al 2010. Ci ascoltiamo Party MacPom, Florid Peace, Grünstück e Good Morning Everybody. Irgendwas davon gesagt, niemand hat mir irgendwas davon gesagt. Niemand hätte mich von irgendetwas abgehalten, niemand hätte mich von irgendetwas abgehalten. Niemand hat mir irgendwas davon gesagt, niemand hat mir irgendwas davon gesagt. Was gestern war, gestern war, gestern war, nicht heute ist. Irgendwas davon gesagt, niemand hat mir irgendwas davon gesagt. Niemand hätte mich von irgendetwas abgehalten. Aber niemand hat mir irgendwas davon gesagt. Niemand hat mir irgendwas davon gesagt. Niemand hätte mich von irgendetwas abgehalten. Niemand hätte mich von irgendetwas abgehalten. Niemand hätte mir irgendwas davon gesagt. Niemand hätte mir nur irgendwas davon gesagt. Was ist gestern da? Gestern da? Gestern da? Nicht heute ist. Und so stand ich dann alleine vor dem Haus Nummer 51, betrachtete den verdunkelten Fenster und stellte fest, dass da nix war mit Fete und so. Und die S-Bahn fuhr vorbei und die Skinheads randalierten. Es war ein richtig schöner Abend in Mecklenburg-Vorpommern. Niemand hat mir irgendwas davon gesagt. Niemand hat mir irgendwas davon gesagt. Niemand hätte mich von irgendetwas abgehalten. Niemand hätte mich von irgendetwas abgehalten. Aber niemand hatte mir irgendwas davon gesagt. Niemand hatte mir irgendwas davon gesagt. Was gestern war, gestern war, gestern war, nicht heute ist. Aber nächste Mal, wenn ich dann selber eine Party mache. Niemand sag ich irgendwas auch nur davon. Niemand sag ich irgendwas auch nur davon. Niemand sag ich irgendwas auch nur davon. Niemand sag ich irgendwas auch nur davon. Niemand sag ich irgendwas auch nur davon. Niemand sag ich irgendwas auch nur davon. Es ist gestern da, gestern da, gestern da, nicht heute ist. Räume auf. was du dereinst links liegen ließest. Ich staple es auf, es wird noch verwendet. Ich räume es nur weg. Ganzen vergebenen Möglichkeiten. Es lässt sich nichts mehr mit ihnen anfangen. Auch sie räum ich weg. Was ich in deinen Träumen suche, ich suche nichts, ich räume nur auf. Es kommen zum Vorschein die Ungetüme, lange verborgen, doch noch vorhanden. Unter den Schichten, Geschichten, Geschichte, auch sie sind nicht weg. Was ich in deinen Träumen suche, ich suche nicht. Ich deine Träume im dunklen Leuchten sehe. Good morning, everybody. Dach und auf den Fenstersimsen. Es klingt wie Maskopieren, eigenartiges Gestöhne. Mit jedem Laster auf der Straße fängt das Haus an zu vibrieren. Und 2 Milliarden Mobilfunknutzern nimmst Klingeltöne. Der Planet ist in seiner Bahn ein weites Stückchen vorgerückt. Und draußen regnet es, es regnet wie verrückt. Die Nacht ist alle. Der Tag schlägt zu. Good morning everybody. Morgen allerseits. Buongiorno, signore. Konnichiwa, neha. Good morning, everybody. Good morning, everyone. Strategies against architecture number 4. Good morning everybody, come spesso accade il buon Blixabargeld ci regala anche dei piccoli siparietti in italiano. Oltre a questa traccia ci siamo ascoltati la precedente Flurpis Grünstück, caratterizzata da un splendido set di campane che ci ha riportato agli albori degli Ashtorzend Neubauten e poi Party Mac Poem. Questa doppia compilation che racchiude il meglio di questi ultimi 8-9 anni, dal 2002 al 2010. Altro pezzo di storia, Throbbing Gristle, 20 Jazz Fun Grits, e qui siamo a cavallo, anzi per l'esattezza sul finire degli anni 70 addirittura. E sentite cosa facevano i Throbbing Gristle. Di Peter Christofferson, recentemente scomparso, Genesis P. Orridge, Chris Carter, Cosa e Fanny tutti. Questa è What a Day, seguita da 60s. What a day. dear bird flesh. Dissolving like an injured dog. Like wasted limbs get smaller. Pain is a stimulus of pain. But then of course, nothing is cured. This is the world now. Move a fin and the world turns. Sit in a chair and pictures change. Try to eat us. Un punto di riferimento storico, questi Throbbing Gristle di quella generazione. Loro SPK, gli stessi Eschur Zen e Neubauten, i Test Department e tanti tanti altri, che hanno costruito una vera e propria scuola e che hanno saputo influire le generazioni successive fino ai giorni nostri. E dunque sul finire dei 70, 78 o 79, adesso non ricordo bene, usciva questo 20 Jazz Funk Grits. E adesso la consueta capatina nell'estremo nord dell'Europa, questa volta andiamo in Svezia. Lo facciamo con un lavoro del 2005 per gli svedesi Survival Unit. Questa è Continuity, che usciva però per l'austriaca Steinklang Industries, e dal quale ci andremo ad ascoltare esattamente Awakening and Bravery e Lessons Learned the Hard Way. Clutching and feeling the straws. You see, you're fooling Adam Smith. minds and functions into groins. This is the doctrine of awakening, a revolt against the modern world. It's a war of the spirit and the cause of the few. Our metaphysicians are coming to rip your materialist heads off. G-head in the gonads of the fat cat with his top hat, fucking twat. Take that! Indifference, inattentiveness, negligence, scorn. The Allard waits on the periphery, waiting for you to die. Our legions sip Molotov cocktails and toast the clear morning. And, as your disease state continues to weaken under the weight of its own hypocrisy, you will be swept aside, superfluous to requirements. Broken statue in a new world, our world. A silent echo in the ears of the impervious. We shall move on without you. Pushing your rotting corpse under the grinding wheels of freedom. Onwards and upwards, released from the artificial decrepitude of your class system. For entering the golden age of the new aristocratic elite. Awakening and Bravery e questa Lessons Learned the Hard Way, il tutto estratto da Continuity per gli svedesi Survival Unit. Ed è con loro, con Survival Unit, alle 22.42 che prove tecniche di trasmissione termina qui, ringraziando 25 O'Clock per i 10 minuti che ci è concesso in più. Prove tecniche tornerà ovviamente con il sottoscritto la prossima settimana, sempre dalle 21 sino alle 22.30. E ricordo anche lo spazio del venerdì pomeriggio più vario e più dedito all'elettro, alla New Wave e al Gothic, che si chiama Disorder. Dunque vi lascio nelle mani di 25 O'Clock.